Questa notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Noi facciamo le riforme. Definire ultimatum le frasi di Brunetta, insomma, le questioni interne a Forza Italia se le risolveranno loro, se hanno voglia. Noi abbiamo grande rispetto per la loro discussione interna, ma non accettiamo gli ultimatum di nessuno, men che mai di Renato Brunetta. Insomma, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, già si capisce il buongiorno dal mattino, quindi questa settimana dall'inizio di oggi c'è alta tensione tra il governo e Forza Italia. Avete sentito Renzi, come ha detto, che gli ultimatum non li riceve da nessuno, non li accoglie da nessuno, tanto meno, men che meno, da Brunetta, quindi gli ha risposto veramente a muso duro. Allora, a questo punto ci si può chiedere, visto che poi il 10 aprile, quindi giovedì, ci sarà anche la decisione del Tribunale di Milano rispetto a Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, se mandarlo agli arresti domiciliari oppure i servizi sociali. Diciamo che sono momenti piuttosto fibrillanti questi. E secondo voi, con tutte queste cose in campo, sul tavolo, reggerà l'alleanza, l'accordo tra il governo Renzi e Forza Italia sulle riforme? Questa, diciamo, è la domanda centrale di questa sera, se volete, questa puntata. E quindi ci sono sempre i due luoghi dove potete esprimere le vostre opinioni, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure per i messaggi, gli SMS al 349 238 6666. E poi c'è anche questa cosa, diciamo, tra le cose che non scontentano evidentemente la popolazione italiana, quelli che se lo possono permettere, è questa cosa delle auto blu. Il governo, almeno in questo, sembra che abbia fatto bingo, come si dice. Le prime 25 auto usate dai vari politici, alquanto anonime, anche se molto professionali, con accessori di qualità, hanno fruttato all'erario più di 250.000 euro lordi, confermando le previsioni. Il governo punta a vendere su eBay tramite asta online entro il 16 aprile tutte 151 le auto. L'incasso sarebbe, se le vendesse tutte, di oltre 1,5 milioni di euro. Insomma, qualcuno può dire che non è chissà quale cifra per la spending review, però intanto è già qualcosa. Intanto, come sempre, vi racconto in sintesi la giornata. Riforme, Brunetta avverte l'Italicum entro Pasqua, il governo si dimetta, la replica di Renzi, non accettiamo ultimatum da nessuno, domani la presentazione del DEF. Il rapporto annuale della Banca Centrale Europea, il presidente Draghi dice la recessione è finita ma la mancanza di lavoro blocca la crescita. Manila, abusi su tre minori, sospeso l'ambasciatore italiano. E poi Ucraina, si rischia una nuova Crimea nell'est del paese, ancora anche Donetsk indice un referendum. Il Papa decide di salvare lo IOR, non sarà chiusa la banca del Vaticano. Sudafrica, Pistorius provato dal processo, la testimonianza prosegue quindi domani. E per il calcio, la capolista Juve batte Livorno 2-0, successo che fa tornare i bianconeri a più 8 sulla Roma in classifica. Intanto da pochi minuti a Marassi di fronte ci sono Genoa e Milan. Partiamo quindi dalla politica, avete sentito, dal rischio di rottura tra governo e Forza Italia a proposito delle riforme. Renzi ha replicato agli ultimatum arrivati questa mattina da Brunetta di Forza Italia, avete sentito, a proposito dell'Italicum, e anche parlato di DEF. Da una parte Forza Italia, dall'altra Matteo Renzi, in mezzo l'Italicum. La mattinata inizia con Renato Brunetta che accusa la legge elettorale ferma da 3 settimane in Senato. Noi chiediamo il rispetto dei patti. Innanzitutto l'approvazione della riforma elettorale, l'Italicum, entro Pasqua. Se Renzi è in grado di farlo, lo faccia. Se Renzi non ha i numeri, perché nel suo partito lui è minoranza, o meglio nel suo gruppo parlamentare al Senato quanto alla Camera è minoranza, ne prenda atto e la smetta di raccontare frottole all'intero mondo. Per il ministro Maria Elena Boschi impossibile accettare la richiesta degli azzurri. A Pasqua mancano solo una decina di giorni e il premier Matteo Renzi non si lascia scappare la replica a Brunetta. Noi facciamo le riforme, non accettiamo gli ultimatum di nessuno, men che mai di Renato Brunetta. Se decidono di stare al gioco delle riforme, noi ci siamo. Se vogliono sfidarsi, che lo dicano, noi prenderemo atto. Subito dopo arriva la controrisposta di Brunetta, il giovane arrogante Renzi: stia sereno, le bolle, per quanto colorate e piene di riflessi, fanno la fine che tutti sanno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Prima il commissario alla spending review Cottarelli, poi il ministro dell'economia Padoan. Ultime limature a Palazzo Chigi per il DEF, il documento chiamato non solo a dare la linea macroeconomica del prossimo triennio, ma anche ad indicare quelle riduzioni di spesa che consentiranno il taglio del cuneo fiscale. Le indiscrezioni della vigilia sembrano intanto confermare i numeri già noti. Il PIL di quest'anno dovrebbe attestarsi attorno allo 0,8%, più in alto di quello indicato dalla Commissione europea, ma sotto l'1% previsto dall'ultimo aggiornamento del governo Letta, mentre il deficit si fermerebbe tra il 2,5 e il 2,6%. Quanto ai capitoli IRPEF ed IRAP, l'obiettivo del governo è coprire gli 80 euro in busta paga interamente con la spending review. Da qui la probabile razionalizzazione, tra l'altro, per camere di commercio, motorizzazione, consorzi di bonifica, sistema delle municipalizzate e rete ACI. La riduzione dell'IRAP dovrebbe essere invece quest'anno solo del 5%, visto che l'aumento del prelievo sulle rendite finanziarie scatterà solo dal 1 luglio e quindi consentirà di coprire solo la metà di quel 10% di riduzione d'imposta previsto a regime. Sul DEF siamo a buon punto, interverremo anche sugli stipendi dei manager, ha fatto capire intanto Renzi. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Intanto nessun incontro ci sarà con Berlusconi, così ha poi tagliato corto Renzi, e l'ex cavaliere aspetta ora la sentenza del 10 aprile su come sconterà la pena. Oggi c'è stata, come da prassi, la cosiddetta indagine sociale, che serve a verificare se per il condannato ci siano i presupposti di un reinserimento nella vita sociale. Sapete, appunto, vi dicevo che si deve decidere tra arresti domiciliari o servizi sociali. Siamo all'economia. L'eurozona è riemersa lo scorso anno dalla recessione, ma la disoccupazione pesa molto sulla ripresa. Questo lo sostiene il rapporto 2013 della Banca Centrale Europea. Intanto resta forte l'incertezza sulle misure straordinarie che Francoforte potrebbe prendere contro la deflazione. Il giorno dopo il richiamo del Fondo Monetario Internazionale ad agire per contrastare la bassa inflazione, la Banca Centrale Europea reagisce con una polifonia di voci che rasenta l'effetto cacofonico. L'austriaco Ewald Nowotny, membro del board, raffredda gli entusiasmi dichiarando che non serve un intervento immediato della BCE per contrastare il rischio deflazione. Nowotny dice di preferire un rafforzamento del mercato degli ABS, Asset Backed Securities, tesi condivisa dal membro lussemburghese del board BCE Yves Mersch, che appare però meno cauto sull'alleggerimento quantitativo. È un concetto teorico, ma siamo pronti a prepararci. Frena pure il presidente della Bundesbank, Weidmann. Così, sul quantitative easing, sintetizza il vicepresidente della BCE, Constanzio, occorrerà vedere cosa accadrà ad aprile per determinare con esattezza le possibili misure straordinarie di Francoforte. Intanto, nel rapporto 2013, la BCE afferma che l'eurozona è emersa dalla recessione, ma, osserva il presidente Mario Draghi, è necessario che i governi procedano con le riforme dei mercati del lavoro, dei beni e dei servizi, al fine di rafforzare la competitività, incrementare la crescita potenziale e creare opportunità di occupazione. Nei fatti, sostiene Draghi, la disoccupazione frena la ripresa e l'aggiustamento dei conti pubblici deve essere favorevole alla crescita, migliorando qualità ed efficienza della spesa e limitando al minimo gli effetti distorsivi dell'imposizione fiscale. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E a conferma di una ripresa dura da realizzare, oggi sono arrivati pesanti dati diffusi dall'Istat. Cala il potere d'acquisto, cala la spesa per i consumi, gli effetti della crisi continuano a farsi sentire per le famiglie italiane, a certificarlo ancora una volta è l'Istat. Nel 2013, secondo l'Istituto di Statistica, c'è stato un modesto aumento del reddito disponibile, più 0,3% rispetto all'anno precedente, un ritorno al segno più dunque, ma la crescita è solo apparente. In termini reali, cioè tenuto conto dell'inflazione, infatti la capacità di spesa delle famiglie è diminuita dell'1,1%, il livello più basso dal 1995. A pesare anche l'elevata pressione fiscale che resta altissima, 51% nell'ultimo trimestre del 2013. Indecisa è risalita invece la voglia degli italiani di mettere soldi da parte, la propensione al risparmio infatti schizza in alto, sfiorando il 10% e crescendo soprattutto nell'ultima parte dell'anno. Quanto alle aziende, si registrano profitti stabili ma investimenti in calo. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Per chi invece se lo può permettere, come vi dicevo, sembra aver approfittato, chi se lo può permettere, dell'offerta del governo che ha innescato quasi una gara. Il prezzo più alto, di poco superiore ai 21.500 euro, l'ha strappato una BMW 525 a gasolio del 2009 con poco più di 78.000 chilometri. Il più basso, 6.570 euro, è stato invece pagato per una Lancia Tesis del 2006 con oltre 143.000 chilometri. Nel complesso è stato di poco superiore ai 250.000 euro l'incasso totale ottenuto con la vendita delle prime 25 auto blu ministeriali messe all'asta sui eBay, dopo il nuovo corso voluto dal premier Renzi, 6 sono state battute ieri, le altre 19 oggi, facevano tutte parte del parco auto del Ministero dell'Interno e molte avevano più di 100.000 chilometri. La cifra incassata con la loro cessione è in linea con le previsioni. Secondo i piani di Palazzo Chigi, entro la metà di aprile dovrebbero essere vendute in tutto 151 auto blu e presto a finire su eBay saranno anche le lussuose Maserati 4 porte acquistate dalla difesa per volere dell'allora ministro La Russa. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E parliamo ora della Banca del Vaticano. Papa Francesco non chiude lo IOR. Approvando la proposta sul futuro dell'istituto, il pontefice ha riaffermato l'importanza della sua missione, ma ha garantito radicali innovazioni. Spostiamoci all'estero, l'Ucraina rischia di perdere altri pezzi, la tensione è altissima, però di questo parleremo bene più tardi. Ora invece una brutta storia che riguarda un diplomatico italiano. La Farnesina ha sospeso l'ambasciatore in Turkmenistan in stato di fermo nelle Filippine. Il Ministero degli Esteri ha sospeso dal servizio l'ambasciatore in Turkmenistan, Daniele Bosio, arrestato durante una vacanza nelle Filippine con l'accusa di traffico di minori. Il titolare della giustizia di Manila, Leila De Lima, ha spiegato che la polizia ha fermato Bosio, 46 anni, sabato scorso nel parco acquatico di Binian, 40 km a sud della capitale, insieme a tre bambini di 8, 9 e 12 anni. Il fermo del diplomatico è arrivato dopo la denuncia di Baha'i Tuluyan Foundation, una ONG impegnata per i diritti dell'infanzia, i cui operatori hanno denunciato Bosio dopo averlo notato con i bambini in un resort della località turistica di Laguna. Secondo una legge filippina del 1992, ogni adulto che si trovi in pubblico con un bambino con cui non ha relazioni e che abbia almeno 10 anni meno di lui deve essere segnalato alla polizia. Il giudice ha convalidato l'arresto di Bosio, che si trova nel carcere di Binan. Nelle Filippine il reato di traffico di minori comporta una pena fino a 20 anni di carcere e una multa di almeno 1 milione di pesos, pari a 16.200 euro. L'ambasciata italiana a Manila sta fornendo assistenza legale al diplomatico e garantisce la massima trasparenza nella vicenda. Bosio respinge le accuse e ricorda il suo impegno personale e le sue iniziative a favore dell'infanzia. Paolo Panceri, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso spostiamoci in Ruanda. Ci sono state le celebrazioni in ricordo dei massacri avvenuti 20 anni fa. Il presidente del paese, Kagame, si è scagliato senza nominarla contro la Francia per il ruolo che ebbe al tempo. Torniamo in Italia, parliamo di mafia. Sono stati scoperti dopo 25 anni gli assassini di un imprenditore antipizzo. L'omicidio di San Valentino, così si ricorda l'uccisione di Francesco Pepi, imprenditore di Caltanissetta, ucciso 25 anni fa nella sua terra. Venne ammazzato perché si rifiutava di pagare il pizzo. Era stato uno dei primi a introdurre le macchine industriali nella lavorazione dei prodotti agricoli, carciofi, peperoni, li esportava nel nord Italia. A distanza di un quarto di secolo, la procura nissena ha individuato i mandanti di quell'omicidio, uno dei tanti assassini, in realtà, avvenuti tra l'89 e il 90, in piena guerra tra clan di mafia e la Stidda. Per il predominio del territorio, fu la cupola di Cosa Nostra a decidere le uccisioni, quando a comandare in quella zona della Sicilia era lo storico boss Piddu Madonia, già detenuto, raggiunto oggi in carcere da questo ennesimo ordine di carcerazione. Ma l'omicidio di Pepi era diverso. Lui non aveva precedenti per mafia, lui non era un criminale della cosca avversaria da eliminare, lui dava fastidio proprio a tutti, mafia e Stidda. Lui andava ucciso perché aveva detto no al racket e questo allora era impensabile, tanto che fu punito con 7 colpi d'arma da fuoco. 14 anni dopo il suo assassinio, nel 2003, gli è stato attribuito lo status di vittima di mafia e conferito un risarcimento alla sua famiglia. Troppo tardi, la sua fabbrica di prodotti agricoli dopo la sua morte chiuse e non venne più riaperta. Monica Cerava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci adesso di un lutto nel cinema. Addio a Mickey Rooney, eterno ragazzo del grande schermo, aveva 93 anni. La carriera da star l'aveva iniziata fin dalla prima infanzia, figlio d'arte. Pensate che debuttò a 17 mesi nel vaudeville, poi a 6 anni nel cinema, a 19 era già re del box office. Ed è morta a 25 anni in circostanze per ora misteriose, non chiarite. Peaches Geldof, figlia del musicista Bob Geldof e della scomparsa Paula Yates, lo riferiscono i media britannici. Secondo quanto emerge, Peaches è stata trovata morta nella sua casa nel Kent. E adesso parliamo anche di università, perché qui siamo a poche ore praticamente, cara sì. Maria Piera Ceci, ecco qui la mia collega che vi parlerà tra poco, ci sarà uno speciale finita naturalmente effetto notte, perché riprendono le prove, i test per entrare in sì, domani si parte con medicina e odontoiatria, poi mercoledì toccherà a veterinaria, quindi architettura, e poi il 29 aprile i test di medicina in inglese. Insomma, domani comunque il via a questo strumento di selezione, perché insomma insomma le nostre università, sappiamo alcune per necessità, sicuramente come ad esempio medicina, non possono fare a meno di avere comunque un numero controllato di studenti, altre un po' per necessità, nel senso che le università non riescono esattamente ad ospitare un maggior numero di studenti. Comunque insomma un metodo questo molto criticato sicuramente dagli studenti, c'è un hashtag che gira smonta il test già da molti giorni. Cercheremo di capire, lo faremo anche con la ministra Stefania Giannini, che interverrà subito in apertura di speciale alle 22, se tu mi cederai a un certo punto il microfono, vedremo, se non ti abbarbichi. E insomma cercheremo di fare il punto per capire se è uno strumento ancora valido, se si può in qualche modo migliorare ed eventualmente come. Naturalmente avremo un sacco di studenti, avremo il rettore dell'Università di Bologna Ivano Dionigi, e chiunque può telefonare all'800 24 00 24, un numero che i nostri ascoltatori ben conoscono. Ma non avrà in anticipo il test di domani, questo è garantito, no. Neanche telefonando. No, mi sa che su questo non vale la pena di sperare. E quindi insomma l'appuntamento è per le 22, dopo di te. Dopo di me, non il diluvio, ma Maria Piera Ceci. Grazie Maria Piera. Invece adesso siamo al calcio con Dario Ricci, perché sono le partite di Serie A. La Juventus ha già vinto contro Livorno 2-0, Dario. Invece adesso c'è il Genoa contro il Milan. Eh sì, ma partirei proprio dalla vittoria della Juventus, Roberta, perché respinge l'assedio della Roma, almeno per questa domenica, ed è la 32esima su 38, quindi scudetto sempre più vicino. Bianconeri che vincono per 2-0 grazie alla doppietta di Fernando Llorente, che liquida il Livorno in 3 minuti al 32esimo con una splendida girata di sinistro, e al 35esimo del primo tempo con un colpo di testa non trattenuto dal portiere degli Amaranto, Bardi. 2-0 per la Juventus. Ci sono volute anche però un paio di belle parate di Buffon per mettere al sicuro il risultato. Dicevamo del Milan, impegnato a Marassi contro il Genoa, cerca i 3 punti il diavolo per inseguire il sogno europeo. 18esimo di gioco, ancora 0-0, Ballotelli influenzato, titolare Pazzini. Grazie Dario Ricci, e poi sarai titolare degli aggiornamenti più tardi. Adesso invece vi lascio agli aggiornamenti per la viabilità. Leggo solo qualcuno dei messaggi che sono arrivati appunto sulla tenuta dell'accordo tra il governo Renzi e Forza Italia sulle riforme. Dice Roberto da Bergamo: non possiamo permetterci di avere la fiducia a fasi alterne legata alle questioni personali di B, quindi bravo Renzi a smarcarsi da Brunetta. Mentre Alessandro da Crevalcore dice: Renzi pagliaccio. Tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Bene, adesso vi ricordo quali sono state le notizie principali e poi dopo passiamo ad altri temi con i vari ospiti. Partiamo quindi dai titoli della giornata. Riforme, scontro, governo Forza Italia sull'Italicum. Renzi dice niente ultimatum da Brunetta, che dice bisogna approvare l'Italicum, dice Brunetta, o salta il patto. E la ministra Boschi commenta: è un'idea soltanto sua, cioè di Brunetta. Poi il rapporto annuale della Banca Centrale Europea, il presidente Draghi dice la recessione è finita ma la mancanza di lavoro blocca la crescita. Manila, abusi su 3 minori, sospeso l'ambasciatore italiano. E poi Ucraina, si rischia una nuova Crimea nell'est del paese, anche Donetsk indice un referendum. Per quanto riguarda la Banca del Vaticano, il Papa decide di salvare lo IOR, non sarà chiuso. E per il calcio, l'avete sentito, la capolista Juve ha battuto Livorno 2-0, cosa che la fa ritornare a più 8 in classifica sulla Roma, e al Marassi di fronte ci sono Genoa e Milan. Bene, a questo punto chiedo se abbiamo prima la nostra inviata speciale. Abbiamo la nostra inviata speciale? Benissimo, allora parliamone. In Ucraina continua a salire la tensione, no? Eravamo rimasti più o meno negli ultimi aggiornamenti alla Crimea, la penisola a sud dell'Ucraina, che alla fine aveva dichiarato l'indipendenza, che in parte era stata occupata dai russi, però c'era una buona parte della popolazione che ha votato questo referendum per l'annessione della Russia. E poi tutta la grande agitazione internazionale, le minacce da parte di Stati Uniti e di Europa e di Unione Europea, che però sembra insomma non abbiano sortito un grande effetto nei confronti di Putin, perché oggi appunto si dice che continua a salire la tensione, perché ci sono state prima, nelle prime ore, si è parlato di occupazioni filorusse nell'est, sapete che c'è anche la parte est dell'Ucraina che è in buona parte filorussa, e poi invece si è parlato di rivolta che si è allargata ad est. Quindi bisogna capire quanto sia la popolazione e quanto, secondo le accuse di Kiev dell'Ucraina, siano invece i russi, sia Putin, a fomentare la popolazione, a mandare soldati. Ma questo ce lo può spiegare solo Antonella Scotta, inviata speciale del Sole 24 Ore. Antonella, quindi dove sta? Insomma, è man mano l'Ucraina in quanto popolazione che si sta smembrando, che si sta agitando, rivoltando, oppure la Russia, da che parte sta il movimento? Il rischio sì è che a questo punto gli eventi hanno preso una piega davvero rapida e c'è questo rischio che si arrivi a una divisione del paese, almeno questo secondo anche le autorità di Kiev. Questo è il piano. Oggi proprio il primo ministro ucraino Yatsenyuk ha apertamente accusato Vladimir Putin di essere dietro questo piano per arrivare a smembrare il paese, a dividerlo e a renderne una parte praticamente schiava della Russia. Quello che però sta succedendo in questi giorni non sembra tanto una mobilitazione della popolazione quanto è proprio opera di attivisti che, secondo il premier ucraino, sono più o meno, lui ha contato circa 1500 militanti in ciascuna delle tre città che ricordiamo che sono al centro da domenica, sono un po' al centro, il teatro di nuovi disordini, quindi Kharkiv, Donetsk e Lugansk, che sono tutte e tre le città più delle regioni orientali dell'Ucraina, più vicine al confine con la Russia. Ecco, qui i disordini, questi assalti ai palazzi del potere da parte di militanti, in realtà appunto non sembrano tanto una sollevazione, una mobilitazione di massa, quanto appunto opera di questi attivisti che, secondo molti, sono addirittura, non sono neanche del posto, è gente mandata dalla Russia. Un episodio anche un po' curioso che fa pensare proprio a una cosa di questo genere è che a Kharkiv un gruppo di credo un centinaio di militanti hanno preso d'assalto il teatro dell'opera, pensando che fosse invece il municipio del paese, esigendo di vedere il sindaco. Quindi anche un giornalista locale diceva questo fa capire, evidente, che questa non è gente del posto. Certo, almeno dove è il municipio lo sapranno più o meno tutti, insomma non scambieranno il teatro con il municipio. Quindi questo fa pensare, per l'appunto, che abbia ragione Kiev, la capitale ucraina, insomma, per dire, l'Ucraina, ad accusare Mosca di tramare per arrivare all'invasione anche delle regioni orientali. Ma tra l'altro è stato indetto, come era successo per la Crimea, anche in questo caso un referendum per quanto riguarda la parte est, che tu dicevi è formata da queste tre principali città, Kharkiv, Lugansk e Donetsk. Sono le tre regioni più vicine alla Russia. In una di queste, appunto, la regione di Donetsk, che poi è il Donbass, la regione delle miniere di carbone. La capitale industriale dell'est. Esattamente, sì, dell'est. Ed è tra l'altro la città del presidente, dell'ex presidente Yanukovych. Ecco, qui i militanti che hanno preso il controllo, che sono impossessati della sede dell'assemblea regionale, hanno proclamato si sono proclamati soviet della Repubblica Popolare di Donetsk, proclamandone l'indipendenza, anche se hanno dietro di sé i tricolori russi. E questa è proprio la cosa che fa temere di più il pretesto per Mosca di intervenire. Hanno detto che in caso di attacchi, di aggressioni da parte delle autorità, loro le chiamano le autorità illegali dell'Ucraina, chiederanno l'intervento di truppe russe. Questo, ricordiamo, sono appunto la mobilitazione delle truppe russe in territorio russo, naturalmente, però vicino ai confini. Lugansk, una di queste tre città, è a 25 chilometri dal confine con la Russia, quindi i russi sono davvero vicini. E questa, l'intenzione di proclamare un referendum, vuol proprio ricalcare e riportare a Donetsk, in queste città, il modello, lo schema seguito in Crimea, anche se siamo in una situazione comunque qui è anche un po' diversa, anche perché comunque in Crimea, per quanto non riconosciuto dalla comunità internazionale come legale, però si muoveva un parlamento di una regione autonoma. In questo caso invece questi attivisti che si sono impossessati oggi del parlamento non hanno nessuno li ha eletti, non sono riconosciuti come aventi nessuna autorità, quindi è ancora più mancante di fondamenta legali questa loro intenzione di tenere un referendum. Antonella Scotta, tra l'altro il referendum è stato annunciato per l'11 maggio, se in realtà appunto ci sono dei militanti mandati dalla Russia a fomentare, ad agitare le acque, a cercare di sollevare la popolazione, a prendere le istituzioni eccetera, questo referendum da chi sarà votato? Quindi ci saranno dei brogli? Ma questo è ancora davvero presto per dire se ci sarà mai questo referendum. In questi giorni le autorità di Kiev hanno davvero poco tempo per poter dimostrare di poter prendere la situazione sotto controllo, perché appunto qui siamo in una dimensione molto diversa rispetto a quella della Crimea, quindi devono dimostrare che sanno gestire questa situazione. Hanno parlato di un piano, un chiaro piano, probabilmente intendono adottare dei provvedimenti contro questi separatisti, così che sono separatisti per loro, ecco, altrimenti davvero la situazione rischia di esplodere, perché a questo punto Mosca ha già fatto capire che le basta, intanto che non si ferma davanti a niente, ma quindi basta un minimo pretesto per intervenire, per invadere il paese. L'ultima dichiarazione del Ministero degli Esteri proprio di oggi pomeriggio fa proprio pensare che le intenzioni sono queste, visto che dicono che il federalismo è l'unica possibilità per avere un'Ucraina stabile. E però questa idea del federalismo che Mosca vorrebbe vedere introdotto con riforme costituzionali è un'idea scartata da Kiev proprio perché è imposto con l'obiettivo di allentare sempre di più il potere di Kiev sulle regioni e quindi piano piano a farle passare queste regioni orientali sotto l'influenza di Mosca. Antonella, ma secondo te, a parte poi bisognerà vedere appunto le reazioni nei rapporti in particolare con gli Stati Uniti, con Obama, no? Che aveva minacciato, aveva cercato di passare con anche l'Unione Europea dalle vie diplomatiche che finora non sono servite a niente, bisognerà vedere poi come quali saranno le conseguenze, ma secondo te, che conosci bene l'Est, c'è possibilità poi di allargamento ulteriore a qualche altra regione anche fuori dall'Ucraina? Sì, la regione di cui si parla come la possibile nuova Crimea, diciamo così, è la regione della Transnistria, che è una sottile fetta di terra che fa parte della Moldavia, della ex Repubblica Sovietica della Moldavia. Anche qui si è riprodotta una situazione in cui una parte del territorio è abitata prevalentemente da russofoni, c'è stata negli anni 90 una guerra con il governo invece di Chisinau della Moldavia, e adesso c'è una situazione di ancora, anche in questo caso, di un limbo in cui una parte del territorio è in sostanza sotto l'influenza di Mosca. Per arrivare in questa Transnistria i russi dovrebbero attraversare l'Ucraina, perché la Transnistria non ha confini diretti con la Russia, quindi anche questa è quella che si viene identificata come la situazione è possibile esplosiva numero la prossima, perché basterebbe un qualunque pretesto per Mosca per dire che deve andare a difendere i diritti dei russofoni in Transnistria, quindi attraversando l'Ucraina. E quanto per non parlare poi ovviamente di uno scenario, in questo scenario completamente stravolto rispetto anche solo a pochi mesi fa, si sono alzate le preoccupazioni dei Baltici, dell'Azerbaigian, la Bielorussia è comunque sempre uno stato che è sempre stato molto vicino a Mosca, ed è diventa assolutamente difficile, non è più negli schemi che avevamo, a cui eravamo abituati fino a pochi mesi fa, immaginare quali sono i prossimi equilibri. È certo che se a questo punto ci fosse, questo per quanto riguarda la reazione della comunità internazionale, dell'Europa, degli Stati Uniti, se i russi dovessero entrare in Ucraina, è chiaro che tutto verrebbe stravolto, non è possibile dire quale potrebbe, dovrebbe essere la reazione. E infatti si è praticamente innescata una dinamica dalle conseguenze imprevedibili, certo, che staremo a vedere. Grazie Antonella Scott. Grazie a voi. Ciao Antonella. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, rieccoci. Tra poco parleremo di politica, vedo tanti messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, anche attraverso i messaggi al 349-238-6666, però prima vi parlo, anzi vi ricordo quali sono state le notizie principali della giornata. Attenzione sulle riforme, Brunetta avverte l'Italicum entro Pasqua, il governo si dimetta, alla replica di Renzi, non accettiamo ultimatum da nessuno, domani poi ci sarà la presentazione del documento economico e finanziario. C'è il rapporto annuale della Banca Centrale Europea, il presidente Draghi dice la recessione è finita ma la mancanza di lavoro blocca la crescita. Manila, abusi su tre minori, sospeso l'ambasciatore italiano, per l'Ucraina avete sentito il rischio di ulteriore spezzettamento della nazione. Poi il Papa decide di salvare la Banca Vaticana, lo IOR non lo chiuderà. Per il calcio, la capolista Juventus ha battuto 2-0 Livorno, mentre Genoa-Milan, adesso vediamo se c'è un aggiornamento di come prosegue la partita, 0-1, cioè 0-1 Genoa-Milan, 1 per il Milan che conduce appunto con un punto di vantaggio. Adesso politica. Parliamo con Betta Fiorito che ne sa qualcosa, essendo lì per Radio 24 tutti i giorni, tutto il giorno in Parlamento. Betta? Sì, Roberta, ciao. Buonasera. Ciao Betta. Senti, oggi avrai vissuto quindi il clima di alta tensione sulle riforme costituzionali tra il governo e Renzi, tra il governo di Renzi e Forza Italia. Brunetta oggi aveva intimato l'approvazione entro Pasqua dell'Italicum, altrimenti aveva detto salterà l'intesa con Forza Italia su Senato e titolo quinto. Poi Renzi non si è fatto spaventare, gli ha risposto un po' a muso duro dicendo non mi faccio dare ultimatum da nessuno, men che meno da Brunetta. Quindi insomma diciamo che così lo ha proprio folgorato, ma e quindi la situazione mi sembra insomma vista poi del 10 aprile, quindi tra tre giorni praticamente, no? In cui si saprà se Berlusconi dovrà andare ai servizi sociali oppure agli arresti domiciliari, è piuttosto febbrile, insomma molto tesa questa situazione. Ma diciamo che Forza Italia sta alzando un po' il tiro in vista del 10 aprile, bisogna capire che cosa succederà dopo il 10 aprile, nel momento in cui la magistratura deciderà poi effettivamente la pena per Berlusconi. La realtà è che loro hanno firmato, Renzi e Berlusconi, il famoso patto del Nazareno, che era la riforma dell'Italicum, che doveva essere addirittura per la Camera e per il Senato. Poi Renzi è andato avanti, ha detto no, noi vogliamo comunque abolire il Senato elettivo e facciamo anche la riforma del Senato e del titolo quinto, che ricordiamo ai radioascoltatori è la riforma del federalismo in pratica. Le diverse competenze tra Stato e Regioni, no? Sì, allora che cosa succede? Che in realtà Forza Italia non ha detto un sì al Senato non elettivo, è composto dai rappresentanti delle regioni e dei comuni. Forza Italia ha detto sì all'Italicum, ha accettato questo fatto che fosse stralciata la riforma dell'Italicum per quanto riguarda il Senato, però ha mal digerito questa accelerata sulle riforme, perché praticamente questo ha lasciato indietro l'Italicum, no? Quindi la legge elettorale. Questo provocherebbe il fatto che non si vada subito ad elezioni, qualora questo ce ne fosse la necessità, ma si allunga la vita della legislatura, una legislatura che per Berlusconi comunque non è pienamente legittima perché il Premier non è stato eletto. Chiaro, Betta, allora, scusa un attimo, sentiamo proprio dalla viva voce di Brunetta la durezza con cui ha detto queste cose, poi sentiamo anche la replica di Renzi, tanto per dare un po' la sensazione dello scambio di parole dure alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Sentiamo. Se Renzi non ha i numeri, perché nel suo partito lui è minoranza, o meglio nel suo gruppo parlamentare al Senato quanto alla Camera è minoranza, ne prenda atto e la smetta di raccontare frottole all'intero mondo. Frottole come il Jobs Act che non esiste, frottole come la riforma del Senato che è approvata 8 giorni fa. In Consiglio dei Ministri non è ancora stata trasmessa al Senato perché evidentemente scritta con i piedi. Frottole come quelle che probabilmente racconterà domani nel documento di Economia e Finanza per dare per l'ennesima volta 80 euro ai redditi medio-bassi, quante volte gli ha dati questi 80 euro? Non si contano più, solamente che non si sanno le coperture, non si trovano le coperture. Nel frattempo pare sia saltata il taglio dell'IRAP. Questo è Renzi. Ma non gliene vogliamo per questo, il ragazzo è giovane, un po' sbruffone, non gliene vogliamo. Vogliamo che mantenga i patti, che mantenga l'approvazione della legge elettorale prima di Pasqua. Se sì, sì, se no, arrivederci e grazie. Questo quindi, Brunetta, se sì, sì, se no, arrivederci e grazie. Sentiamo invece la risposta, Elisabetta Fioreto, di Renzi. Noi facciamo le riforme, definire ultimatum, le frasi di Brunetta, insomma le questioni interne a Forza Italia se le risolveranno loro se hanno voglia. Noi abbiamo grande rispetto per la loro discussione interna, ma non accettiamo gli ultimatum di nessuno, men che mai di Renato Brunetta. Se decidono di stare al gioco delle riforme, noi ci siamo. Se vogliono sfidarsi, che lo dicano, noi prenderemo atto. Eccoci, Elisabetta Fioreto. Quindi, secondo te, ma quello che pensa Brunetta, che dice il Jobs Act non esiste, il Senato, la riforma è stata scritta con i piedi, domani il DEF sarà un altro disastro, una cosa piena di frottole, è la stessa cosa che pensa Berlusconi? Non ti chiedo di essere l'esegeta del pensiero, però... secondo te? Ma Brunetta è sempre molto acceso nei toni, molto più di Berlusconi. In realtà il patto non l'ha fatto Brunetta, ma l'ha fatto Verdini al Nazareno. Quindi, insomma, bene o male, Brunetta molto spesso è andato per la rottura e poi invece magari Berlusconi ci ha ripensato. Ora bisogna vedere, io credo che tutto sia un'alzata di toni in vista del 10 aprile, dopodiché si deciderà. Però quello che dice Brunetta è che il patto era stato fatto sull'Italicum, il che è vero. Ora Renzi, che Renzi abbia o non abbia i numeri, oggi c'è stato il Bersaniello da Torre che ha detto tuttavia bisogna superare il bicameralismo perfetto, che era una sorta di dire vabbè, questa riforma del Senato la votiamo pure, però ci sono dei mal di pancia, c'è stata la proposta di Vannino Chiti, ci sono stati 25 senatori PD che sono contro un Senato non elettivo. Quindi quello che dice Brunetta in parte è vero, che i numeri proprio al Senato non sono così saldi, perché noi sappiamo che Renzi ha una maggioranza nel partito ma non ha la maggioranza del PD a livello parlamentare, questo va detto. Detto ciò, mi è sembrato più veramente un'alzata di toni, fa bene Renzi dal suo punto di vista a dire noi andiamo avanti e poi vediamo, anche perché il gioco è questo, il momento che tutti si sfidano, non è possibile fare le riforme, Renzi ha già la risposta pronta, andiamo al voto, i sondaggi lo danno favorevole, Berlusconi è molto indietro, anzi addirittura forse indietro al Movimento 5 Stelle, per cui a Renzi tutto sommato le urne non fanno paura, fanno più paura a Silvio Berlusconi. Però Betta, prima dicevi che sotto sotto il vero obiettivo dell'accordo di Forza Italia e la priorità data all'Italicum è proprio quello di riuscire ad andare al voto il prima possibile, avendo finalmente la riforma della legge elettorale, però dall'altra dici in fondo hanno anche paura, quindi sono in una posizione... La possibilità di andare al voto, non è che detta, cioè la possibilità che si possa andare al voto. Ricordiamo che si può andare al voto anche oggi, perché c'è una sentenza della Consulta che ha dato una modifica al Porcellum, sarebbe una situazione abbastanza paradossale con un proporzionale quasi puro, però insomma non è che non si può andare a votare oggi. È chiaro che per far vedere che Forza Italia in questo momento esiste, visto che c'è Berlusconi che tra il 10 aprile, l'infortunio al ginocchio, insomma l'unica cosa per cui in questo momento è attiva è stato il Dudu Act, no? questa svolta animalista di Forza Italia, allora, c'è stato oggi chiamato un attimo Renato Brunetta a smuovere un pochino le acque, ad alzare un po' di polvere. Detto questo, vediamo quello che succede nei prossimi giorni, perché è vero che Renzi, se il PD vota sì, se tutta la maggioranza vota sì, la possibilità di fare le riforme ce le ha, il problema è che si fanno come al solito le riforme da una parte sola, quindi a colpi di maggioranza, ed è quello che il PD ha sempre contestato a Forza Italia, quindi questo è il paradosso. Insomma, c'è una sorta di situazione paradossale che secondo me si scioglierà con il 10 aprile, Roberta. Grazie Betta Fioreto, quindi ci aggiorneremo sul 10 aprile, veramente sono tra pochi giorni, una data imminente. Grazie Betta, adesso ci sono gli aggiornamenti per chi viaggia. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E vi aggiorno, vi ricordo i titoli principali, ma vi aggiorno anche sulle notizie perché agenzia di poco fa, terremoto, scossa a Torino, avvertita anche ai piani alti delle case, una notizia di pochi istanti fa questa. E poi le altre l'avete sentito sulle riforme, la tensione tra il governo Renzi e Forza Italia, e poi il rapporto annuale della BCE che dice la recessione è finita ma la mancanza di lavoro ovviamente blocca la crescita, l'Ucraina sempre più a rischio sbriciolamento, e poi il Papa che decide di salvare la Banca Vaticana, lo IOR non sarà chiuso. Per il calcio, la Juve che ha vinto 2-0 contro Livorno, e adesso al Marassi Genoa Milan, vediamo se ci sono degli aggiornamenti sulla partita, sempre il Milan che conduce per 1-0. E adesso lo spazio dedicato all'Europa, le elezioni europee sono alle porte, 25 maggio, nel dibattito pubblico però si parla spesso di temi legati all'Europa, ma l'Europa è sentita da molti piuttosto lontana, soprattutto non si interpellano mai giovanissimi, ma com'è l'Europa vista da chi ha 16 anni o poco più? Questo è l'interrogativo al quale ha cercato di dare una risposta lo scrittore Andrea Bagliani, curatore del progetto L'Europa a 16 anni, che verrà presentato l'8 maggio al Salone Internazionale del Libro di Torino. Intanto da segnalare il progetto Yes for Europe della rete italiana Eurodesk per accrescere il livello di consapevolezza dei giovani sull'Europa, per promuovere la conoscenza, le opportunità, la partecipazione, la cittadinanza. Yes for Europe offre la possibilità di consultare un database online sulle opportunità di mobilità educativa nel campo del volontariato, dei tirocini, del lavoro, della formazione, grazie alla segnalazione di eventi, occasioni di scambio di esperienze all'estero, e il sito www.yes4europe.it. Europa 24 notte. Brace, magnete, chiocciola, circo, sipario, stormo, pelle, tangram, nonostante e ancora. Non è uno scioglilingua, ma sono le parole scelte da alcuni ragazzi italiani e tedeschi per raccontare l'Europa. Vocaboli curiosi, per non dire anche un po' strampalati, con cui i giovani hanno cercato di riempire di contenuti reali quotidiani quello che a volte può sembrare una scatola vuota, qualcosa di lontano dalla vita e dalla percezione delle persone. Si chiama L'Europa 16 anni ed è il progetto che verrà presentato nel Salone Internazionale del Libro di Torino, curato dallo scrittore Andrea Bagliani. L'idea semplicemente è stata quella di provare a guardare che cosa c'era dentro le parole. Ci sono delle parole che siamo abituati a pronunciare, ma in realtà se apriamo quella scatola non sappiamo cosa ci sia dentro. L'Europa, la parola Europa, è una di queste scatole, di questi contenitori di fronte al quale in realtà tutti spalancano le braccia. Nessuno sa mai cosa dire dell'Europa, salvo il linguaggio dell'economia, della politica, ma sembra sempre un fatto di propaganda elettorale. Il punto è stato, allora proviamo a chiedere a dei ragazzi di 16 anni che dentro l'Europa sono cresciuti, proviamo a chiedere loro delle parole che siano magari delle parole più concrete rispetto a quelle dell'economia e della politica. Per 3 mesi dunque 15 studenti di Torino e 12 di Berlino hanno lavorato a distanza per individuare le 10 parole europee. Risultato? Un'Europa dei ragazzi che parla di migrazioni, di attrazioni, di nomadismo, ma anche di ostacoli da superare e voglia di restare. Questo è quello che interessava a me, cioè provare a far venire fuori delle parole che in qualche modo fossero degli indicatori strambi di che cosa poteva essere l'Europa, per cui parola magnete, che mi piace molto e che evidentemente non è una parola con cui uno normalmente designa l'Europa, e che però dell'Europa dice moltissimo, trasmette e fotografa l'idea che ci siano dei paesi, dei luoghi che hanno una forza attrattiva molto più forte, vuoi per il lavoro, vuoi per la curiosità, vuoi per la bellezza, e ci siano cittadini da altri posti dell'Europa che verso quel luogo si spostano, e penso appunto alla Germania, in particolare in questo momento a Berlino come città che attrae moltissimo rispetto alla Spagna, all'Italia, che si spostano verso di loro. C'è la parola stormo che anche lì indica, sono molte che indicano il movimento in un'Europa che appunto in realtà è qualcosa che rappresenta comunque una possibilità. Insieme a questa c'è la parola circo, e di nuovo siamo al nomadismo, c'è la parola nonostante, che ha una doppia valenza nel modo in cui dai ragazzi è stata trovata, cioè si può leggere o l'Europa esiste nonostante la divisione dei paesi, oppure nonostante esista l'Europa i paesi sono ancora tutti divisi. Da qui che cosa emerge? Che i ragazzi hanno fiducia nell'Europa? I ragazzi Per i ragazzi l'Europa, e questa è la grande differenza, per i ragazzi l'Europa è come la differenza tra gli adulti, noi adulti che parliamo continuamente di tecnologia, e loro che la usano. Questi ragazzi ci sono nati dentro l'Europa così come noi la conosciamo, per cui loro sono abituati, e per loro l'Europa è potersi spostare facilmente da un paese a un altro con un volo low cost, e poter avere accesso a un altro paese, per cui è un valore, sicuramente è un valore. Alessandra Schepisi, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 Notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso passiamo invece a tutto un altro tema, quello dei pirati della strada. Quante volte ne avete sentito parlare? Purtroppo negli ultimi 6 anni, secondo l'osservatorio il Centauro ASAPS, sono stati registrati 4.168 episodi gravi di pirateria stradale, cioè quando qualcuno investe un'altra persona e poi scappa, con 653 morti in 6 anni e 4.953 feriti, circa 5.000 feriti. Ne vorrei parlare con Giordano Biserni, che saluto. Buonasera Biserni. Sì, buonasera a lei e agli ascoltatori. Presidente della Associazione Amici della Polizia Stradale, quindi sono dati impressionanti questi, no? Beh sì, abbiamo voluto fare il punto sui 6 anni, praticamente da quando è nato l'osservatorio del Centauro ASAPS, su questo tema così drammatico, perché ci fornisce dati in controtendenza rispetto alla sinistrosità stradale, che per fortuna invece è in calo. Ai dati che lei ha fornito poco fa, io voglio aggiungere che nel 26% dei casi, 26,4%, il pirata della strada è risultato ubriaco o drogato. Questo è un aspetto che a noi sta praticamente a cuore. In che percentuale questo, Biserni? Il 26,4%. Quindi un quarto, diciamo, di questi pirati casi individuati. La percentuale è basata su quelli individuati, tra l'altro, che sono il 65%. Cioè, su 4.168 episodi, in 2711 si è trascritto il nome e cognome del pirata negli atti di polizia, no? 65%. Di questi, 716 sono risultati sotto l'effetto di alcol o droga, quindi anche 172 morti dei 653 sono legati alla confidenza con l'alcol e la droga, un dato abbastanza impressionante se si tiene conto del fatto che qui vengono calcolati solo gli stati di ebbrezza alcolica o per droga, quando l'individuazione del pirata è fatta nelle immediatezza del fatto, poco dopo, un'ora, due, tre ore. Quando il pirata viene identificato giorni dopo, settimane dopo o mesi dopo, è chiaro che questo dato salta. Bisogna, abbiamo purtroppo ancora un minuto per vari slittamenti questa sera, ma che sistemi di prevenzione avete pensato voi, visto che sono tanti anni che vi occupate di questi problemi? Beh, una grossa mano circa la prevenzione e soprattutto la repressione ce l'hanno data le telecamere collocate lungo le strade per le forze di polizia, per questo raccolgono dati significativi e molto positivi. Beh, il sistema di prevenzione è solo quello di dare una forte informazione, creare delle coscienze, spiegare che il 65% dei pirati viene comunque catturato. Fra la molla che nelle molle che caricano la pirateria c'è anche purtroppo la scopertura assicurativa. Biserni, e poi naturalmente anche le pene, se ne è parlato tante volte, anche dell'omicidio stradale, ma su questo purtroppo dovremo tornare più in là. Io la ringrazio intanto Giordano Biserni. Grazie nel frattempo, buona serata, tra poco.